Gravitate, show you what is true. I would love to see what you would do without your power TV too. And your billowy cushions of righteous news, which carry you across the sky for this brand new day. Which reminds me again and again that it's high time to say, listen, listen, listen. Hear us now, hear us now. We ask you now, listen, listen. I'd rather use my eyes, you see, beyond the screen of your TV. I'd rather use my eyes to simply scrutinize a landscape of love that lifts me into the chaos of this human disgrace race. Human, human, human disgrace. E dopo il GR di Radio Popolare, come ogni mercoledì, l'incipit. Intanto stiamo ascoltando la produzione di Christian Prommers della Sonar Collective per un brano dei Dining Room, Hear Us Now. Ascoltateci, ascoltate Radio Città Fujiko, poi ci sarà il Voltiamo Pagina, Silvia Albertazzi curerà, immagino, la colonna sonora anche per quest'oggi, 22 marzo. Allora, il libro di cui dà incipit La Sissa a breve, lo conosco ma non l'ho letto. Sentiamo assieme quindi questo incipit per la giornata di mercoledì, mercoledì magico di Radio Città Fujiko. A tra poco. Ciao, sono la Sissa e questo è l'incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Approfondendo la questione dell'incipit, ho scoperto che ci sono vari tipi di incipit. C'è quello descrittivo, quello narrativo, oppure quello in media res. Ci sono vere e proprie teorie sul valore e l'importanza di questa prima parte del romanzo e della sua influenza sul lettore nella scelta di lettura. È quindi un tema che riguarda sia gli addetti ai lavori che non. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete se e quale libro leggere? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi nei quali mi sono imbattuta entrando in libreria e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni di lettura. Queste sono le prime righe di The Game di Alessandro Baricco. Una decina di anni fa ho scritto un libro che si intitolava I Barbari. A quei tempi accadeva a molte persone normali e a quasi tutte quelle che avevano studiato di ritrovarsi a denunciare un fatto sconcertante. Alcuni dei gesti più alti, belli e dotati di senso che gli umani avessero messo a punto in secoli di applicazione stavano perdendo ciò che avevano di più prezioso, scivolando apparentemente verso un fare disattento e semplicistico. Che si trattasse di mangiare, studiare, divertirsi, viaggiare o scopare, cambiava poco. Gli umani sembravano aver disimparato a fare tutte quelle cose in bel modo, con la dovuta attenzione e con la cura sapiente che avevano imparato dai loro padri. Si sarebbe detto che preferissero tirarle via velocemente e in modo superficiale. Un particolare sconcerto era dettato dalla quotidiana osservazione dei figli. Li si scorgeva preda di un'inspiegabile retromarcia genetica a causa della quale, invece che migliorare la specie, sembravano con tutta evidenza perpetrarne una misteriosa involuzione. Incapaci di concentrarsi, dispersi in uno sterile multitasking, sempre attaccati a qualche computer, vagavano sulla crosta delle cose senza scopo apparente che non fosse quello di limitare l'eventualità di una pena. Nel loro illeggibile andare per il mondo si intuiva l'annuncio di una qualche crisi e si credeva di scorgere l'imminenza di un'apocalisse culturale. In questa prima pagina Baricco mi ricorda molto mia madre quando dice: ah, voi giovani, ai miei tempi le cose si facevano in un altro modo. Però devo dire che mi incuriosisce parecchio questa prima pagina, perché in effetti anch'io sento un divario tra me e le generazioni più giovani, tra come le cose le faccio io e come le fanno loro. Quindi mi ha incuriosito parecchio. E voi? Come on my readers! Come on my readers, grazie Sissa, grazie alla Silvia Pioggia, perché tutto va troppo veloce, questo lo dico da mo', e quindi The Game di Alessandro Baricco è il protagonista nell'incipit curato da Silvia Pioggia, un po' di musica perché sono le 7:54 minuti, l'appuntamento con l'incipit, come on my readers, a me questo slogan piace tantissimo e quindi lo ripeto in coro subito dopo la puntata dell'incipit. Detto questo, 333-180-9494, William Piana, Silvia Albertazzi, voltiamo pagina di oggi 22 marzo, ovviamente mercoledì, quindi tra pochissimo, e non cambiate frequenza, il mercoledì letterario di Radio Città Fujiko.